Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, i protagonisti delle storie anche quando non stanno sulle prime pagine dei giornali. Questa è l'Italia in controluce. E come ogni venerdì, oggi l'appuntamento è dedicato interamente al mondo della scuola. Sentiamo. Scuola in controluce. Il senso di questo libro è stato per restituire alle insegnanti la tanta umanità che ci hanno dato durante tutto l'anno di lavoro. Un anno di lavoro nelle scuole dell'Aquila, fra gli studenti e le maestre alle prese con il dopo terremoto. Un gruppo di psicologi chiamati a raccogliere cocci di storie interrotte, a far ripartire la vita attraverso la scuola. Un'esperienza raccolta nel libro Le 398 meravigliose maestre dell'Aquila, perché è proprio grazie alle maestre che si è potuto compiere il miracolo della rinascita, come ci racconta uno dei curatori del libro, lo psicologo Federico Bianchi di Castelbianco. Tutta questa attività che abbiamo svolto l'abbiamo svolta perché erano donne, cioè il vero collante dei cocci dell'Aquila è stato l'elemento femminile, perché sono state capaci di gestire sia una situazione lavorativa, sia una situazione di familiare, sia una situazione personale, una grande elasticità, una grande capacità di riflessione, cosa che gli uomini molto più rigidi in questo hanno accusato molto di più. È proprio l'elemento femminile che ha retto. La cosa è che quando venivano sempre con un sorriso. Guardi, una cosa molto carina è che noi abbiamo organizzato questi gruppi nelle varie classi, nelle varie scuole. Dopodiché io ho ricevuto la richiesta sia da parte del personale ATA sia dal personale amministrativo, che mi hanno guardato e hanno detto: ma perché noi non possiamo fare nulla per aiutarci? E allora abbiamo organizzato i gruppi anche per loro, tutte donne sempre. Allora hanno trovato alla base un criterio di capire le proprie difficoltà, il proprio dolore, ma per riemergere, ed è questo è un elemento tipicamente femminile come capacità. La scuola dunque come luogo per rintrecciare i fili di una vita che si è fermata alle 3:32 del 6 aprile, il giorno del lutto e del dolore. Le paure maggiori le avevano all'inizio, quando dovevano affrontare i lutti che c'erano stati, quindi a scuola c'era, poteva essere il banco vuoto, poteva esserci la situazione di familiari. Ovviamente siamo intervenuti proprio nelle classi, è stato affrontato, abbiamo affrontato in vari modi affinché tutti i bambini, diciamo, fosse presente il problema della tragedia, però gli si desse un risvolto positivo, nel senso che nessuno dimentica nulla, che c'è una cosa molto carina di un bambino, ma le dico questo, dove c'era un bambino che è deceduto, e questa classe ovviamente disperati, però affrontare piano piano nel ricostruire questa figura di questo bambino, rifare dei giochi che potessero permettere una vicinanza. Dopo un po' sì, è vero, e vedo anche dei parenti di questo bambino, e disse: sì, ma era un po' birichino, cioè faceva delle monellate. Poi tutti i bambini si hanno ricordato, quindi non solo le cose belle ma anche le cose più ovviamente infantili, ma comunque come i dispetti, le cose, e ricostruito una figura sana, diciamo così, dove tutti poi hanno fatto riferimento, però hanno fatto riferimento e hanno capito un valore simbolico, aver perso qualcosa ma aver conservato dei valori interni. Mi diceva che sono intervenuti anche dei parenti di questi bambini deceduti. Sì, guardi, la combinazione, poi il caso, non so se è il caso del destino, che proprio in quei giorni in cui si parlava, in quella mattina in cui si parlava di quel bambino, sono dei nonni a portare dei dolci, che dicevano che erano i dolci che piacevano a quel bambino, e anche loro hanno saputo di questo, si stava ricordando per affrontare questo lutto, non lasciarlo scoperto. Il problema vero è che con tutti i bambini si è dovuto parlare della morte, cioè non è normalmente dire: beh, la morte lascia stare, ne parliamo un'altra volta. No, abbiamo dovuto affrontarlo perché i bambini hanno fatto i conti e hanno saputo, diciamo così, accettare una realtà senza subirla. Quindi da un lato c'è stata la necessità di rielaborare il lutto proprio, esatto, della morte, esatto, di alcuni compagni. Che altre paure grosse sono emerse fra questi bambini? Ovviamente la paura che ritorni il terremoto, era quella, la paura che si sconquassi un'altra volta la famiglia, la paura, e poi nel libro per esempio abbiamo citato sia come i bambini piccoli piccoli avevano descritto il terremoto, che avevano descritto in modo estremamente carino, cioè chi l'aveva chiamato il terremoto come un grande verme che si era mosso sottoterra, un altro detto una colpa di coda di un dinosauro, un altro ancora detto no, è stato una zampata del toro mannaro, e l'ultimo che aveva detto invece una gnappetta di 5 anni, aveva detto no, vi siete sbagliati tutti, è stata una puzzetta gigante che ha steso la città. E sconfiggere una puzzetta, seppur gigante, è una cosa che si può fare, quindi fra i piccoli il recupero è stato possibile. Più difficile invece fra gli adolescenti, fra i ragazzi delle scuole superiori. Sono venuti a centinaia e centinaia, sono venuti singolarmente tanti agli sportelli a parlare delle loro situazioni, ma lei deve pensare che adesso quello che si temeva c'è stato, così diciamo che un aumento dell'uso dell'alcol, purtroppo un aumento delle droghe, c'è stato un enorme uso del sesso come via di fuga, sono aumentati i comportamenti a rischio in modo esponenziale. Che cosa vi hanno raccontato gli adolescenti? Hanno raccontato un po' tutte le loro situazioni, ad esempio tutto il loro futuro che è saltato per aria, anche perché appunto rispetto ai bambini gli adolescenti erano quelli che, lei lo sa quante famiglie si sono separate all'Aquila? 2000. C'era paura da parte degli adolescenti di tornare a scuola, di mettersi anche un tetto sopra la testa? No, gli adolescenti in questo sono più fatalisti. Da un lato sono più fatalisti e dimostrano di meno, però dall'altro sono aumentati i comportamenti a rischio, quindi la paura è insita dentro, anche se non è esternalizzata. Alla fine di questo lavoro, secondo voi, insomma, siete riusciti in qualche modo a con i bambini sì, grazie agli insegnanti. Con gli adolescenti, quelli con cui siamo stati in contatto, sicuramente qualcosa abbiamo ottenuto. Credo che ci sia ancora tanto da fare. Però la scuola ha dato una buona prova di sé. Oh, grande, guardi. La cosa che mi colpì di più, devo pensare se ce la possiamo fare, perché all'inizio, quando era giugno, stavo nei container, tutte le scuole erano un container, dove ci avevano insegnanti, ragazzi, genitori, e ero lì per parlare con i dirigenti. Ho sentito tutti i genitori che andavano e facevano le domande le più astruse, ma le più astruse erano che dice mio figlio lo riscrivo qui, oppure che figlio l'università dove la farà, magari delle elementari, oppure ci sarà una prossima scossa, cioè tutte le domande le più impensabili, e la capacità di risposta di questi dirigenti sempre è pacata, equilibrata. Io è veramente rimasti colpito, perché se avessero risposto a male parole a qualcuno io avrei dato ragione, anche loro erano traumatizzati, invece no, hanno retto. Continuiamo il cartello, perché quella piazza non è abbastanza grande per contenere tutta la nostra rabbia. Così a dicembre la protesta degli studenti e dei ricercatori contro la riforma dell'università, riforma poi passata e diventata dunque legge. Cos'è rimasto di quelle proteste e di quel movimento? Tutto finito? La scorsa settimana abbiamo parlato di Torino, oggi invece parliamo di Roma e lo facciamo con Giorgio Paterna dell'Unione degli Universitari. La protesta prosegue perché lo smantellamento del carattere università, ma del diritto allo studio, nel senso che i ragazzi negli studentati iniziano a vedersi negare la possibilità dall'anno prossimo di avere i sussidi dello Stato, inevitabilmente continua con una mobilitazione di piazza, e il prossimo appuntamento è un appuntamento che abbiamo scelto tra tutte le componenti universitarie, quello del 28 gennaio, che è quello della FIOM. Ecco, si è aperto un momento di riflessione all'interno del movimento studentesco, perché di fatto le proteste sono state forti ma i risultati sono stati piccoli, nel senso che la legge è passata. Io penso sinceramente che senza quell'incontro di Napolitano, senza questo rapporto che si è instaurato con le istituzioni, con l'istituzione più alta, che da allora, a partire dalla questione dei giovani, ha iniziato ad entrare, non voglio dire a gamba tesa, ma a entrare nel merito delle vicende politiche e il disagio sociale, non solo giovanile, sociale in senso lato, credo che quello sia più che un buon risultato, sinceramente. E ora la battaglia rispetto all'università si sposta non solo sulla piazza, ma anche sugli statuti, nella battaglia interna agli Atenei e negli organi del Ministero. Italia in controluce torna lunedì prossimo alle 6.30 e alle 13.30 come ogni giorno. L'inizio della settimana sarà dedicato alla giornata della memoria. Un programma, ve lo ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.